4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta buonasera, bentornati, questo è il programma di motori dedicato da parte di Radio 24 insieme ai colleghi di Quattro Ruote a tutti coloro che non solo utilizzano i motori ma ne sono anche appassionati. C'è Filippo Oreggi in regia, vi farà ascoltare tutte le voci questa sera che poi troverete sul nostro sito radio24.it. Benvenuti anche da parte mia, ogni sabato alle ore 21 siamo qui. Oggi per parlare di Mercedes classe E, piace molto questa nuova classe E, abbiamo provato insieme ad Andrea Stassano di Quattro Ruote la 350 CDI. Poi parleremo di Mini Design Award, un premio importante del gruppo Mini BMW, e di Formula 1, visto che anche sebbene sia già finito il campionato di massima serie, fa ancora parlare di sé e il campionato è aperto in un certo senso per l'anno prossimo, il mercato piloti è ancora in azione. E poi un'esclusiva importante per Radio 24, Tony Cairoli, neo vincitore campione del mondo di motocross MX1, la classe regina, sarà nostro graditissimo ospite. Tutto questo per dirvi che iniziamo dalla Mercedes E 350 CDI. Buonasera Andrea Stassano da Quattro Ruote. Buonasera a tutti, a voi e agli ascoltatori. Caro Andrea, che tipo di auto è questa nuova classe E? La classe E è una macchina imponente, una macchina che ha, diciamo, nuove tecnologie di bordo, un livello di qualità e di sicurezza molto elevato, e in questa versione E350 Coupé offre un mix buono di, diciamo, di sportività e di comfort con un gran motore V6 3000 turbo diesel. Molto bene, questo per introdurre alla Mercedes E350 insieme alle caratteristiche che adesso andiamo a leggere insieme. Sarà pure parente della berlina, ma dal frontale in giù la nuova Mercedes E350 Coupé è altra cosa. Con la linea di cintura alta, il padiglione elegante e sinuoso e l'assenza dei montanti centrali. Sotto il cofano romba un V6 turbodiesel di 3 litri, che rappresenta il top delle motorizzazioni a gasolio, e per la dotazione propone anche il costoso pacchetto sportivo AMG. La E350 Coupé ha tutto per dribblare la routine e far viaggiare comodi e veloci. Linea, appeal, gran motore e abitacolo accogliente. Costa, ma è ricca di accessori, e la lista degli optional è senza fine. Nome: Mercedes E350 CDI Coupé. Carrozzeria: coupé due porte a 4 posti. Dimensioni e peso: lunghezza 4,69 m, larghezza 1,78 m, peso 1730 kg. Motore: anteriore longitudinale diesel 6 cilindri a V. Potenza: 231 cavalli. Trasmissione: trazione posteriore, cambio meccanico a 7 marce. Prezzo: 56.407 euro. Ecco, queste erano le caratteristiche della vettura che oggi è al centro della nostra prova. Rompiamo ogni indugio. Andrea Stassano, come va questa vettura? Iniziamo dalla dinamica. Ma è una vettura che ti può dare buone soddisfazioni nonostante le sue dimensioni, abbiamo detto è una macchina imponente, ma con soprattutto su questo esemplare con il pacchetto AMG e il tasto sport ha delle qualità dinamiche piuttosto interessanti. Appunto premendo questo tasto sport si ottiene un irrigidimento delle sospensioni, una risposta più rapida del cambio e del motore, e quindi questa macchina, che è più veloce e comoda che non sportiva, può anche dare delle soddisfazioni su percorsi misti, magari non troppo tortuosi. Di sicuro il suo terreno ideale è l'autostrada, perché viaggia a 2000 giri a 130 all'ora con una grandissima riserva di potenza, ha una coppia incredibile, e quindi abbinata al cambio automatico indubbiamente si riescono a ottenere prestazioni molto elevate, soprattutto in grande silenzio. A 130 all'ora si viaggia con soli 67 decibel di rumorosità, che è praticamente un record nella categoria. E questo è quello che piace a molti amanti del marchio tedesco, ci ha un po' abituato da sempre sempre alla grande eleganza, al grande comfort di viaggio, come dici giustamente tu. E questa è una delle prove che pochi fanno, no? Perché ovviamente la prova intorno al concessionario non consente di, per esempio, percorrere a 130 km orari e sentire il rumore di rotolamento, quanto vengono assorbiti o invece riflessi i rumori che provengono dall'esterno. Per quanto riguarda l'interno, credo ci sia ben poco da dire, perché lo stile è quello Mercedes, Andrea. Sì, lo stile è uno stile classico, uno stile austero, che guarda molto alla qualità. Basta sfiorare, insomma, comandi, la pelle, i materiali, i rivestimenti, e ti accorgi subito che la qualità è superiore. C'è un prezzo, però c'è anche un corrispettivo di valore evidente. Il tono abbastanza serioso di queste macchine, austero, però è volutamente così. In ogni caso tutto al posto giusto, i comandi sono semplici, intuitivi, molti sono ripetuti al volante, e quindi sei in una posizione confortevole anche per quanto riguarda la gestione dei vari sistemi di bordo, che sono tanti, dal navigatore a un climatizzatore molto sofisticato e in opzione ad altri vari sistemi di controllo della distanza di sicurezza e altre cose. Alcuni limiti di queste vetture sono rappresentati dalla somma delle tecnologie e delle strutture che sono a bordo delle stesse, e mi riferisco al peso. È il peso un problema, per esempio, per i consumi, Andrea, di questa vettura o no? Lo è, diciamo, per tutte le vetture di oggi, lo è soprattutto per le utilitarie, perché hanno motori, diciamo, più piccoli e hanno un peso relativamente alto da portarsi a spasso. Su questa Mercedes Coupé in realtà abbiamo un peso importante, l'abbiamo visto, 1800 kg e oltre, però è vero anche che abbiamo un motore poderoso che ha una grandissima coppia, e devo dire che col cambio automatico e questi motori il peso quasi, non dico scompare, però indubbiamente diventa più lieve. Molto bene, fra poco la pagella darà i voti a questa vettura, nel frattempo io saluto e ringrazio Andrea Stassano da Quattro Ruote. A presto Andrea, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti gli ascoltatori. Quattro ruote e dintorni. Bene, proseguiamo il nostro cammino all'interno dei motori. Stiamo provando la classe E350 CDI Coupé, anzi la stiamo terminando questa prova perché manca soltanto la pagella. Dunque diamo i voti alla E350 CDI Coupé. Posto di guida riuscito, adattabile a più taglie e con numerose regolazioni. Ottimi tecnologici sedili multicontour. 5 stelle. Finiture. Di pregio. Pelle e plastica morbide. Alluminio con ampia possibilità di personalizzazione nei materiali. 4 stelle e mezzo. Comfort. Motore avvertibile solo ai bassi regimi. Auto rigida su ostacoli brevi, ma non durissima. Il molleggio c'è. 4 stelle. Su strada. Sicura. Stabile. Anche se non agile. Non prontissimo lo sterzo e inserimento in curva non proprio fulmineo. 4 stelle e mezzo. Consumi. In città è penalizzata dal peso e fa 8,8 km con un litro. Fuori fa valere il CX e stacca un 12,5. Di media è sugli 11. 4 stelle. E con la pagella termina anche la prova della nostra Mercedes di oggi. Troverete tutto naturalmente su radio24.it da lunedì pomeriggio riascoltabile. Adesso vorrei presentarvi un altro gradito ospite, Emilio De Leidi, appassionato e grande conoscitore di Formula 1. Caro Emilio, buonasera e bentornato. Eccomi qua Roberto, buonasera a tutti. Ma insomma, sta succedendo di tutto e di più ancora di quello che è successo durante la stagione. Credo che Benzing su Il Giornale abbia scritto una volta che bisognerebbe fare i complimenti allo sceneggiatore che ha scritto insomma le battute di questo campionato, perché ne sono successe di tutti i colori quest'anno. Vogliamo ricapitolare, dopo la vittoria al mondiale di Jenson Button in Formula 1, che cosa è successo e a che punto siamo oggi, Emilio? Beh, veramente hai ragione. stagione, è successo di tutto e non poteva esserci copione migliore anche per il dopo stagione. Sappiamo che già durante l'estate la BMW aveva annunciato il proprio ritiro, poi è arrivato quello della Toyota che ha piedato Glock e Trulli, e poi c'è stato un altro colpo di scena, cioè la Mercedes che invece che abbandonare le corse ha deciso di comprarsi in toto il 75% della Brown GP, cioè quella della squadra che con Ross Brown ha dominato il campionato di quest'anno. Questo ha voluto dire un rientro a pieno titolo di una casa che a questo punto sarà titolare, proprietaria sia del telaio che dei motori, non più solo fornitore di motori alla McLaren, di cui pure possiede il 40%, e nello stesso tempo una McLaren che continuerà ad avere i motori Mercedes fino ad almeno un paio, non si parla addirittura del 2015, anche se tutte queste sono delle opzioni che andranno valutate. Sì, perché ormai i contratti qui strapieni di opzioni sono carta straccia, perché i piloti che devono rimanere invece se ne vanno grazie a delle penali pagate anche in maniera abbastanza leggera, motori che vengono forniti e poi improvvisamente rifiutati. Insomma, è un mondo che, nonostante i contratti, e pensate gli avvocati che firmano questi contratti, cambia ogni mezza stagione, Emilio. Hai ragione, anche perché il caso più clamoroso di contratto non rispettato, lo sappiamo, è quello di Raikkonen alla Ferrari, che avrebbe avuto diritto di correre ancora per la prossima stagione, ma che invece sarà sostituito, e questo è l'altro grande colpo di mercato pilota di questa fine annata, da Alonso. Questo vuol dire che Raikkonen sarà pagato comunque dal team o dagli sponsor o da qualcuno, e probabilmente, non avendo concluso con la McLaren, prenderà quello che si suol dire un anno sabbatico, forse dedicandosi ai suoi amati rally. Potrebbe esserci una Citroën del team Red Bull ad aspettarlo, e questo potrebbe preludere un suo rientro nel 2011 in Formula 1, eventualmente proprio con la Red Bull, visto che fra due anni ci sarà in scadenza il contratto di Mark Webber. Però non è tutto, perché come hai già accennato, la squadra campione del mondo si è privata dei suoi due piloti che hanno portato a vincere il titolo costruttori quest'anno, oltre a quello piloti con Jenson Button, quindi non ha rinnovato i contratti. Barrichello è andato alla Williams, e questo poteva anche essere comprensibile, ma è più difficile capire come si siano lasciati sfuggire il pilota campione del mondo, cioè Jenson Button, che è andato alla McLaren, dove farà una coppia formidabile tutta inglese insieme a Lewis Hamilton. A questo punto resta libero un seggiolino di prestigio alla Mercedes, perché la Mercedes ha ingaggiato Nico Rosberg, a sua volta venuto via dalla Williams, ma ancora un monoposto libero che potrebbe andare a Eiffel, se si vuole, un team tutto tedesco, ma qualcuno ha fatto diverse volte anche il nome di Michael Schumacher, legato alla Ferrari, ma fino a che punto non si riesce a capire. Ormai non lo capisce più nessuno, è chiaro. Poi anche un po' di dietrologia ci sta in questo mondo. Fatto sta che è una delle poche volte che ad alcune settimane dalla fine del campionato le cose sono ancora aperte, e questo certo mantiene alta la tensione, chissà che non ci sia un po' di malizia anche in questo. Parliamo anche italiano, Fisichella ha un contratto Ferrari, se non sbaglio, invece Jarno vola negli Stati Uniti. Fisichella ha un contratto come terzo pilota della Ferrari, ma ha anche una clausola che gli permette di non onorare questo compito qualora dovesse trovare in un altro team un posto da titolare, e si potrebbe parlare, ipotizzare un suo ritorno alla Force India o addirittura alla Sauber, che potrebbe avere i motori Ferrari, Sauber che rientra in possesso dell'ex team BMW, a patto che vengano trovati gli 80 milioni di euro necessari per rilevare effettivamente questo team. Doveva esserci in ballo un fondo del Qatar, che sembrava aver concluso un accordo con la BMW, ma nelle ultime ore sono stati avanzati dubbi su questa operazione, quindi non sappiamo. Chiaro. Effettivamente vedremo la Sauber al via. Per quanto riguarda Jarno, ha provato la Toyota Stock Car NASCAR negli Stati Uniti, è stato piuttosto scioccato dal fatto di dover guidare una vettura chiusa a ruote scoperte, non ha ancora deciso, si faceva il suo nome per team come la Lotus, che ha la possibilità di rientrare, o addirittura anche per la Sauber. Si vedrà quello che succederà nelle prossime settimane. Molto bene, grazie davvero a Emilio De Leidi, a prestissimo e buona serata. Grazie. grazie, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. E adesso invece parliamo di un premio importante, un premio che ogni anno non manca di far parlare di sé, il Mini Design Award. È un premio apprezzato anche dai più giovani e sentiremo tutto da Carlo Botto Poala, marketing manager di Mini. Caro Carlo, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Noi ci diamo del tu, Carlo, cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori. Allora, intanto, che cos'è il Mini Design Award? Ma il Mini Design Award è un contest, un concorso che abbiamo ormai sviluppato da qualche anno, dal 2005 come prima edizione, ed è un concorso rivolto verso i giovani talenti italiani nel mondo del design. Come potete immaginare, il design e Mini sono sempre stati due mondi molto vicini. Mini è un'icona di stile, di design e di creatività. Ed è per questo che a partire appunto dal 2005 offriamo la possibilità a questi giovani talenti di esprimersi grazie a questo concorso che si chiama Mini Design Award. Allora, cerchiamo di capirne alcune regole e poi ci racconti che cosa è successo quest'anno. Sì, quest'anno il tema era Aria Nuova in Città, sì. È un tema che abbiamo proposto per l'anno 2009. Con questo progetto abbiamo voluto mettere al centro la semplificazione, la razionalizzazione, il disegno e il ridisegno del sistema degli oggetti presenti all'interno delle nostre città. L'obiettivo di questo concorso è quello quindi di migliorare la vivibilità quotidiana. Beh, insomma, è un progetto importante, visto che in quella vivibilità quotidiana noi siamo immersi ogni giorno. Che cosa è emerso? Quale tendenza, se tu dovessi trovare un fil rouge di tutti i premiati o dei migliori lavori da questo lavoro di quest'anno? Ma sicuramente è stato un lavoro molto duro della giuria, quello di assegnare il premio. Ci siamo trovati davanti a una qualità di lavori molto alta, ma anche e soprattutto con un legame molto stretto da una parte verso la città, ma dall'altra parte anche verso la fattibilità di questi progetti, quindi un design in questo caso essenziale e soprattutto sviluppabile realmente anche all'interno della città. Carlo, allora, chi ha vinto e come? La giuria ha assegnato il primo premio ad Alessandra Rapaccini con il progetto City Speed Turbines. Il progetto è molto interessante, è costituito da un sistema modulare di turbine eoliche in grado di produrre energia sfruttando il movimento delle masse d'aria prodotte dal passaggio dei veicoli. Come potete immaginare, il sistema è applicabile all'interno delle gallerie della metropolitana, le gallerie ferroviarie o stradali di ogni città. È un progetto interessante di recupero e risparmio energetico. Quindi ogni volta che passa un veicolo, evidentemente una massa d'aria si sposta, l'idea è stata quella di sfruttare questo spostamento. Perfetto, correttissimo, e soprattutto l'idea è stata anche quella di poter implementare questo tipo di progetto e di idea in differenti punti della città per un recupero anche dell'energia dello spostamento di quest'area. Veramente bello, che cosa ha vinto? Il premio in realtà è un premio in denaro, ma c'è anche soprattutto per loro una grande opportunità, quello di essere presenti all'interno della Triennale di Milano in esposizione dal 1 dicembre al 13 dicembre, quindi l'opportunità di dare visibilità al loro progetto e di incontrare tutte le persone che possono essere interessati a questo tipo di progetto di sviluppo. Tutto questo alla Triennale di Milano fino al 13 dicembre, andate a vedere questi lavori, sono davvero interessanti. Grazie davvero al marketing manager Mini, Carlo Botto Poala. Grazie Carlo e buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. Quattro ruote e dintorni. Dunque, ve l'avevo promesso all'inizio della nostra trasmissione, la terza e ultima parte è adesso dedicata a un'esclusiva radiofonica che ci è concessa da un campione del mondo. Insomma, non capita tutti i giorni di averlo ospite, non capita tutti i giorni, o meglio tutti gli anni, che lo sia italiano, un campione del mondo. Sto parlando del motocross, la regina delle categorie si chiama MX1 e quest'anno neocampione del mondo è Tony Cairoli, proviene dalla Sicilia, italianissimo, ed è al telefono con noi. Caro Tony, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. E intanto grazie per la tua disponibilità. Staremo insieme ai nostri ascoltatori per una decina di minuti. Partiremo naturalmente dalla tua ultima impresa e tratteremo l'argomento motociclistico e atletico, perché questo siete ovviamente, voi campioni siete prima di tutto atleti con un'ottima preparazione fisica, ma poi sarà un'intervista che andrà a farti un po' le pulci su una serie di cose più personali, per scoprire davvero chi è Tony, cioè Antonio, in realtà questo è il tuo nome di battesimo, Cairoli, nato in Sicilia il 23 settembre del 1985, quindi tu ti sei laureato campione del mondo della MX1, questa è la prima volta nella classe regina, vero? Sì, questa è la mia volta nella classe regina, hai detto bene. Senti Tony, iniziamo a ripercorrere un pochino le tappe e arriveremo poi a quest'anno. Tu avevi pochissimi anni quando sei salito a bordo di una moto. Ci racconti le primissime esperienze nel giardino di casa? Sì, diciamo che è stato il mio padre, ecco, che mi ha indirizzato verso questo sport quando avevo soltanto 5 anni, quindi è stata abbastanza, all'inizio un po' dura, anche perché mia madre ovviamente era contraria, sì. Però dopo un po' di pratica, visto che ero abbastanza portato, e quindi era un po' più tranquilla. Se erano solo pochi gli anni che sono passati da quando insomma sei nato a quando sei salito in sella, qualcosa che poi non hai più abbandonato, in realtà il campionato del mondo numero uno, il primo campionato del mondo, ti ha visto protagonista già ancora minorenne, in realtà avevi 17 anni, vero? Sì, ho iniziato a fare il mondiale sì quando avevo 17 anni, quindi abbastanza giovane, poi la vittoria, ecco, del primo mondiale è stata a 19 anni, anche lì abbastanza, diciamo, l'italiano più giovane a vincere un mondiale, ecco, di motocross. Dici poco, caspita, il motocross, credi tu che sia una disciplina sottovalutata oggi, visto che si parla sempre di calcio e su questo abbiamo raccolto un paio di lamentele dei nostri ascoltatori ovviamente attenti ai motori? Quest'anno si è parlato tantissimo del tuo collega Valentino Rossi, che ha segnato davvero un record incredibile, 9 campionati del mondo, neocampione del mondo, vuol dire che lui è il più veloce in pista in tutto il mondo. Tu però sei il più veloce in una pista fuori strada, una pista motocross nel mondo. Secondo te se ne parla troppo poco, come molti dicono, di motocross, Tony? Purtroppo sì, dai, diciamo che per noi il sacrificio è anche diciamo superiore ai colleghi della velocità, perché il nostro allenamento è sicuramente superiore a loro, anche perché loro fanno ogni tanto qualche test, diciamo, programmato, se no, ecco, le gare. Invece noi dobbiamo allenarci, ecco, durante la settimana, dobbiamo allenarci diverse volte, dobbiamo tenere, ecco, il fisico in una certa maniera per cercare di essere sempre pronti, ecco, alle gare e fare 40 minuti, ecco, al top della condizione. Ecco. Sì, perché sono 40 minuti veramente asfissianti dal punto di vista fisico, vero? Ci racconti qual è la fatica in una gara? Perché molti pensano che la moto sia un pezzo di ferro con un acceleratore e basti girare quel polso destro. In realtà cosa c'è dietro, Tony, fisicamente? Diciamo che la moto, il cross specialmente, fuori strada, insieme a saltando, le buche, la staccata, insomma, la partenza, il contatto con gli altri, è molto molto faticosa, più che altro a livello cardiorespiratorio, ci sono veramente dei livelli abbastanza alti, e quindi l'allenamento fisico è importantissimo, ecco, sia per mantenere la concentrazione che, ecco, per cercare di tenere la moto nel miglior modo possibile. E anche per evitare gli infortuni, cosa che ti è capitato l'anno scorso, ti ha impedito di vincere un campionato del mondo. Ci racconti che cosa ti è successo? Sì, l'anno scorso era più di metà campionato e ero secondo al mondiale con circa 12-13 punti di svantaggio, però, ecco, mi sentivo abbastanza bene, poteva sicuramente puntare, ecco, alla vittoria anche l'anno scorso. Poi in Sudafrica, con un piccolo errorino e un contatto con un altro pilota, ecco, ho messo un po' male la gamba, ecco, mi sono rotto i legamenti del ginocchio sinistro. Tra l'altro il ginocchio è uno dei punti più importanti per un crossista, perché tutto il suo peso viene ovviamente sostenuto da caviglie con stivale e da ginocchio con tutte le protezioni. Che tipi di allenamenti fai? Cioè, quante ore passi in palestra, quante ore invece passi in motodromo? Ma diciamo che durante la stagione, ecco, si fa 3-4 allenamenti in moto a settimana e, diciamo, gli altri giorni si passano un po' in palestra, un po' a correre a piedi, che è la cosa, diciamo, più importante. Non tanto la palestra durante la stagione, perché si predilige, diciamo, un allenamento, come dicevo prima, un po' più, ecco, cardiocircolatorio, quindi, ecco, si fa un po' più di fiato, tra virgolette, sì. Si dice, quindi durante l'inverno magari si fa la palestra, ecco, e si fa la massa muscolare magari. È chiaro, e poi durante la stagione per la resistenza alla fatica, che è quella che conta in quei 40 minuti. Ci racconti questa stagione, quest'annata, ormai sei fuori, ti sei laureato campione del mondo, ti chiedo le prime sensazioni intanto che hai avuto subito dopo aver vinto, e ci racconti la tua stagione, se è partita bene o male, se si è sviluppata meglio o peggio. Diciamo che la stagione è andata benissimo per me, sopra le aspettative, perché da debuttante con una nuova categoria tutti erano un po' scettici, diciamo, per quanto riguarda, ecco, la mia prestazione di quest'anno. Poi io per le prime gare ho avuto un po' di problemi ad ambientarmi, ecco, ho avuto un po' più, abbiamo cercato di lavorare molto sulla moto e su come la volevo, e quindi ho fatto le prime gare un po' così così di campionato italiano, ecco, le gare premondiali. Poi siamo arrivati al mondiale e la prima gara in quinto posto, e quindi ero abbastanza contento, ecco, di come stava andando. Sì. Poi piano piano, ecco, la seconda gara è andata ancora benino, ecco, erano sempre nei primi cinque del mondiale. Poi la terza gara ho vinto tutte e due le gare in Turchia, e lì ho capito che potevo, ecco, puntare magari un po' più in alto, ecco, dei piazzamenti, e quindi mi sono impegnato al 100%. Da lì, ecco, ho ottenuto la tabella rossa di leader, ecco, fino all'ultima gara. Grandissimo, Tony. Vogliamo parlare anche della tua moto e del tuo team, perché ci sarà un cambiamento importante l'anno prossimo. Sì, il mio team è dal 2004 che sono nel team De Carli, quindi mi sono trovato subito a mio agio in questo team, veramente tutti i meccanici con tutti, e quindi dall'anno scorso, ecco, dovevano essere un altro anno, diciamo, Yamaha per noi, e poi invece con un po' di questi problemi che ci sono un po' in giro, un po' questa crisi economica, un po' di tutto, e la Yamaha ha deciso di tagliare un po' tutti qualche budget, allora ci ha chiesto di guardarci un po' in giro, perché erano un po' momentacci, e quindi la KTM è da tempo che va dietro al team De Carli, ecco, e quest'anno è andata bene per l'anno prossimo, ecco. Quindi vuol dire che l'anno prossimo tu gareggerai in KTM, ma sempre con De Carli. Sì, sì. Con cui ormai si è creato un buon sodalizio. Che cosa cambierà dal mondo Yamaha al mondo KTM? Per esempio, un nostro ascoltatore, Renzo, sapendo di questa intervista che abbiamo preannunciato, ha parlato di leveraggi del posteriore. Così ti chiedo anche di spiegare questo, che è un aspetto più tecnico, agli ascoltatori magari meno avvezzi a questi tecnicismi. Ma credo che sia interessante che un campione del mondo faccia capire, con la tua disponibilità, con la tua capacità anche di far capire le cose complicate a chi ama il motocross e non sa tutti i dettagli, Tony. Sì, diciamo che è una forma, ecco, della sospensione posteriore che ha dei diversi, diciamo, è attaccata in un punto del forcellone, che sarebbe dove si attacca la ruota, sì. quel punto dove si attacca la ruota, che ha diciamo col PDS, che era la formula con cui veniva, ecco, costruita la moto prima, veniva attaccato in un modo, magari con un angolo, e la sospensione posteriore veniva messa con un angolo diverso di adesso, e quindi creava in certe piste, magari in certe tipo di tracciati, veniva un po' a essere messa in crisi quel tipo di sospensione di prima. Ecco, adesso hanno sviluppato questa nuova soluzione che si chiama PDS, che dovrebbe, ecco, adesso io ancora non lo so perché non ho avuto modo di provarla, però ecco, diciamo che dovrebbe essere meglio, e quindi gli appassionati sono anche molto, ecco, in attesa di questa cosa, vogliono, ecco, sapere. La scopriremo con te all'inizio della prossima stagione. Sarai sempre un pilota Red Bull? Sì, sì, sicuramente, sarò sempre un pilota Red Bull, e per me è un onore essere un pilota Red Bull, perché ci sono veramente... il marchio veramente si medesima col pilota, e quindi ti dà veramente tantissime cose che veramente servono a un pilota di motocross, specialmente perché il Red Bull, è sinonimo di adrenalina, quindi nel cross dietro al cancello con 40 persone, ecco, è lì, se non è lì, diciamo, il momento più adrenalinico, ecco, non so quale sia. Chiaramente. Senti, Tony, 2 minuti e ci salutiamo. Ti chiedo di svestire i panni di campione del mondo di motocross, di vestire quelli di Tony Cairoli uomo. E da dove iniziamo? Dagli spaghetti alla carbonara, dalla musica preferita alla trance, o dal rally e jet ski, che sono i tuoi hobby? Raccontaci di te. Ma a me piace molto la musica, quindi cioè nel cross, anche prima di una gara, vado sempre con le cuffie, ecco, con le MP3, perché diciamo è d'obbligo, perché ti dà, diciamo, quella carica in più che magari senza musica, ecco, è un po' tutto più spento, ecco. Quindi la trance, diciamo, è anche dance in generale, perché diciamo ti dà ecco, quella carica, come dicevo prima, che serve, ecco, nel chiaro campo. Chiaro. Ci ha scritto Marco facendoti complimenti per un lato bellissimo tuo, umano, che è la disponibilità. Dice: sempre disponibile a sorridere, a firmare autografi. Mi auguro, dice Marco, che non smetta mai, come alcuni suoi colleghi hanno fatto negli anni. Cosa ne pensi? purtroppo per fortuna, diciamo, la notorietà ti dà tantissimi più fans, però ecco, capisco anche che magari c'è qualcuno che non riesce, diciamo, a coniugare, diciamo, sia il momento gara con il momento fans, ecco, quindi magari risulti un po' più, ecco, restio, diciamo, a fare autografi e cose varie, però durante il momento di gara, ecco, è un po' difficile, ecco, riuscire a, chiaro, a essere concentrati e a essere, ecco, anche disponibili, quindi capisco anche chi non lo è, però ecco, io cerco di fare del mio meglio per adesso. Grande Tony, non smettere mai. Senti, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, ricordando la filosofia di vita che ci hai mandato, Take It Easy, che dice molto di te e che condividiamo pienamente. Ti faccio un grande in bocca al lupo per l'anno prossimo, ma soprattutto un buon fine anno. A presto e grazie a Tony Cairoli, campione del mondo di motocross MX1 qui su Radio 24. Ciao Tony. Ciao e grazie a tutti. Con la voce di Tony Cairoli finisce anche la nostra trasmissione, troverete tutto su radio24.it. Noi ci risentiamo invece sabato prossimo alle ore 21. Grazie a Filippo Aureggia, rimasto con me in regia, Roberto Rasia vi ha parlato, vi augura soprattutto una buona guida.